Una mela al giorno. E rieccoci insieme a caccia di emozioni e suggestioni sul palco dell'Ariston. È la settimana di Sanremo e noi non vogliamo perdere l'opportunità di parlare di musica, di emozioni e fare un po' di arte terapia insieme agli artisti che salgono sul palco. Oggi è il turno di un grande campione che torna a Sanremo dopo averlo anche già vinto. In linea con noi c'è Fausto Leali. Wow, che buongiorno. Bello! Buongiorno, ciao! Buongiorno a tutti, ciao, come va? Io vado molto bene, grazie. Poi bene, fare due chiacchiere con te è sempre un piacere. Come artista navigato ti troverai in gara con giovani pulcini alle prime armi. In parte anche un po' il tema della tua canzone. E mi pensavo, tu che cosa vorresti o pensi di essere per loro? Un collega, una guida o magari quel padre che canti nella tua canzone? Fausto. Ma allora, praticamente il padre però ha un argomento che riguarda anche il figlio, perché si rispecchia nel figlio. Quindi il figlio automaticamente si deve rispecchiare nel padre. Mm. Deve pensare al suo futuro che molto probabilmente andrà, si ripeterà questa cosa qui. È un gioco, un gioco di parole che non è strausato, voglio dire, però è la ruota della vita. Ma è così. Difatti io porterò il venerdì sera a cantare con me un giovane che ha 30 anni, Fabrizio Moro, perché è il tipico ragazzo che insomma ha avuto un'infanzia un po' così e di conseguenza può parlare anche lui con grande forza e soprattutto con grande credibilità. Sì, è vero. Quando tu, Fabrizio è una persona che abbiamo avuto modo di incontrare proprio qui in studio a Radio 24 e devo dire che ci ha conquistato proprio per questa sua spontaneità, oltre al fatto che è un bel ragazzo, ma questo riguarda noi donne, ma devo dire che l'ho scelto per questo. Sì, noi devo dire che siamo rimasti, anche gli ascoltatori, molto sorpresi di questo ragazzo franco che non vuole nascondere nulla. Senti, invece io ti ho nascosto, ma perché è in linea con noi, il nostro Alberto Pellai, che è stato in silenzio ad ascoltare quello che noi ci dicevamo per cogliere un aspetto, una parola, una chiave da sottoporci come riflessione. Alberto, ciao. Ciao Nicoletta, saluto anche Fausto Leali. Ciao Alberto. E devo dire che sono particolarmente felice che negli artisti che hai ospitato questa settimana in occasione di Sanremo ci sia lui, perché la sua canzone è davvero una piccola, direi, enciclopedia del rapporto padre-figlio. Ci sono moltissime canzoni nel mondo della musica in cui un padre canta un figlio, ma quasi sempre sono canzoni che parlano al bambino che è nato da poco, al piccolo che ti fa tenerezza. Questa è proprio una canzone che invece fotografa il rapporto padre-figlio quando il figlio entra in adolescenza, quando un po' ti devi preparare al passaggio di testimone, e c'è dentro una saggezza e una verità che secondo me parla al cuore di tutti i padri che saranno all'ascolto e commuoverà anche molto le mamme. Senti, Alberto, quindi tutto questo per dire a Fausto in diretta: Fausto, vieni a trovarci, anche a questa casa non è un albergo, vero? Devo dire che lui sta proprio cantando molto, quel padre. Molto volentieri. Quindi Fausto, sei entrato a Essere Benessere per suggerirci, anche per raccontarci un po' di te e per suggerirci anche delle strade, perché voi avete una sensibilità particolare, noi conoscendovi possiamo trarre qualche spunto, ed entri anche in questa casa non è un albergo, ti riserveremo un posto d'onore nel nostro grande divano. Grazie a Fausto. Grazie. Leali, grazie infinite, grazie a voi.